prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Proseguiamo anche oggi l'ascolto di alcuni interventi effettuati durante il corso di formazione per catechisti sul tema della carità. Settimana scorsa vi abbiamo proposto la definizione di carità da parte del professor Luigi Gui, adesso sentiamo la voce di Elide Siviero. Per parlare della carità ho pensato a due testi biblici. Il primo è proprio il cosiddetto inno alla carità. Che cos'è la carità per questo inno? Ce lo dice all'inizio: aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò la via migliore di tutte. Precisa Paolo che la carità non è un carisma, ma è la via. E nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, la via non è qualcosa, ma è qualcuno. Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù. Per cui la carità, come la chiamiamo noi, è Cristo dentro il quale noi viviamo. L'amore non è tanto qualcosa che cresce in noi o risiede in noi, ma essendo Gesù in mezzo a noi, quindi il nostro vivere dentro di Lui, non dipende dalla nostra capacità, non dipende dalla bellezza di colui che amiamo, è la vita di Dio in noi. Quindi se io dovessi definire la carità, direi che è ciò che Dio ci dona nel Figlio e che ci permette di vivere come cristiani, perché non può esistere carità fuori da Cristo. Poi è un amore che non ha nulla di astratto, è molto concreto, è magnanime, è benigna, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non è invidiosa. Cioè non è un amore astratto, etereo, è qualcosa che si concretizza. E poi dice Martini che sono più le cose che non fa la carità di quelle che fa, perché è non tentare di voler modificare l'altro, è l'accettare che l'altro sia così, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non si indispettisce, tutto crede, tutto sopporta, questo amore che avendo la sua origine in Dio è capace di qualcosa di strepitoso. L'altro brano che mi è venuto in mente è il comandamento dell'amore nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, capitolo 15, dove però Gesù usa la parolina entolè che ha in sé il concetto di una rivelazione. Quando dice vi do un comandamento nuovo, è come se volesse dirci vi do una rivelazione nuova. E Sant'Agostino, commentando Gesù che dice vi do un comandamento nuovo, riflette dicendo ma non è nuovo questo comandamento, anche nell'Antico Testamento c'era il comando di amare, ma è nuovo perché quando lo dà Gesù ti rende nuovo. Ma la parola chiave del vi do il comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato, è quel come, che è kazos in greco, che non indica semplicemente un paragone, come lo traduciamo in italiano, ma ha valore generativo. Potremmo tradurre così: per il fatto che io vi amo, voi amatevi. E quindi capiamo l'origine in Dio di questo amore. Per il fatto che Lui ci ama, noi ci amiamo. Io mi sento dentro a questa situazione di fragilità, di dolore, perché ho una malattia, ho la sclerosi multipla che mi impegna. Quindi io mi devo confrontare tutti i giorni con questo dolore molto impegnativo e con la disabilità che la malattia mi comporta. Quindi mi trovo dal lato di chi deve chiedere. Sono io, sono in prima persona, io la persona che deve imparare a chiedere. Dall'altro lato, guardare chi invece è chiamato a soccorrere, ad essere vicino a una persona che è in difficoltà. Guardando il mio lato di persona ammalata, questa malattia gestisce la mia vita, nel senso che decide quanto posso camminare, decide quanto posso stare in piedi, quanto posso parlare, quanto riesco a dormire. Questo mi ha fatto scoprire una cosa importante, che il dolore è davvero qualcosa di profondamente segreto. È un segreto che abbiamo in comune solo con Dio, perché solo Dio può arrivare a capire davvero la situazione che io vivo. Paradossalmente, lo dico proprio paradossalmente, può diventare una risorsa la malattia, il dolore, perché ti fa scoprire degli aspetti del Signore, delle tenerezze che non potresti scoprire. Come anche sempre la malata, la persona bisognosa, fa scoprire la carità di chi ti è accanto, la gentilezza di mia suocera, la premura di mio marito, l'attenzione della vicina di casa, della persona del supermercato che mi aiuta a mettere le cose dentro la borsa. Proprio la fragilità mi ha messo nella condizione di imparare a chiedere. Bisogna imparare a chiedere con gentilezza, farsi aiutare, e gli aiuti arrivano. Io non ho mai trovato un rifiuto, devo attraversare la strada, sono in difficoltà, tutti mi aiutano, basta che io chieda scusi, mi aiuta ad attraversare, tutti mi aiutano. Quindi è la richiesta che mette l'altro nella condizione di dare, ed è molto bello, è un'esperienza meravigliosa nella mia vita, se devo dire è una delle cose più belle, per cui io vivo una fraternità costante, perché ovunque trovo dei fratelli che mi possono aiutare, dal medico all'infermiere a quello che aspetta che non si chiuda l'ascensore per farmi arrivare, mi attende, e mi accorgo che metto l'altro nella condizione di dare e l'altro è felice di dare. Dall'altro lato ci vuole l'attenzione a non essere troppo oppressivi nel dare subito risposte affrettate. La persona malata non ha bisogno che tu gli spieghi perché è ammalata. Molto spesso invece il credente sente il dovere di dare, come gli amici di Giobbe, tutta una serie di letture teologiche. Quello che mi viene da dire è: se un ammalato non te la chiede la lettura teologica, non dargliela, vuol dire che non ne ha bisogno di altro. Detto questo, come metto insieme questo dare, questo ricevere con il termine carità? Io ho capito che questo è l'agire all'interno della Trinità. All'interno della Trinità c'è il Padre che eternamente genera e c'è il Figlio che eternamente è generato. Noi quando pensiamo a Padre e Figlio pensiamo a un prima e un dopo. In realtà l'immagine usata da Gesù per Padre e Figlio vuole indicare una relazione, non un prima e un dopo. Quindi il Padre eternamente genera, il Figlio eternamente è generato, e ci dice questo, che se è divino dare, generare, è divino ricevere, essere generati. E questa è l'esperienza bella che sto facendo. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.